Gioia, sì, è poco dirlo perché l'abbiamo sofferta molto e adesso mi vedevo da certi momenti mi vedevo delusissimo, poi in certi momenti ci vedevamo a gioire, non si sapeva perché non avevamo la certezza, quella tranquillità di riuscire a centrare questo obiettivo. È arrivato, pagato la regolarità e sicuramente da una parte ha aiutato il pubblico, ma dall'altra l'ho vista tesa in viso come non mai, si è messa a piangere per cui Giorgio la capivo. Questo bronzo a Roma da papà più che da allenatore quanto vale? Come allenatore tanto, perché insomma se fosse anche un altro atleta che non è mia figlia sarei qui a gioire, perché insomma questo è un mondiale, dietro c'è un lavoro alle spalle che se lo fai anche con un altro insomma non è una passeggiata. Adesso il futuro? Ma il futuro 2012, prossimo anno gli europei, in Europa siamo sempre un po' più protagonisti, un po' più abbiamo possibilità di fare qualcosa di medaglie e portarne di più, però l'obiettivo resta 2012.